Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: ci occuperemo del difficile, improvvisamente difficile percorso della legge di stabilità. Perché? Perché sapete tutti, immagino, che quando Mario Monti annunciò le sue dimissioni disse porterò a compimento la legge di stabilità, la legge finanziaria si chiamava una volta, la finanziaria, e poi mi dimetterò. Nel frattempo vi è stata anche l'ipotesi che Monti appoggi o diventi il perno di una coalizione politica di centro. Sostanzialmente il PDL, per voce del portavoce Cicchito, ha detto abbiamo bisogno di più tempo, al di là delle varie analisi politiche che verranno comunque fatte, perché la legge finanziaria in questo momento rallenta il suo iter per ragionamenti prettamente politici, non tanto perché i partiti che appoggiano il governo, quindi maggioranza e opposizione, siano in disaccordo sui contenuti. Gli emendamenti ormai sono stati fatti, perché dicevo il calendario dei lavori prevedeva via libera del Senato entro oggi e quello della Camera entro venerdì. Dunque fanno slittare, a questo punto probabilissimamente slitteranno tutte le scadenze, e verrà allungata la data della legislatura, di conseguenza si sposterà anche la data delle elezioni. La cosa importante però, al di là delle elezioni, è che questa legge finanziaria o di stabilità va approvata entro il 31 dicembre, quindi gli ultimi giorni utili sono 28-29, vado a memoria, perché altrimenti dovremmo andare in quello che si chiama esercizio provvisorio. Ora non è nemmeno ipotizzabile una cosa del genere, che vorrebbe dire dare un'immagine fuori di un paese che non riesce nella parte finale della legislatura nemmeno a approvare la legge di stabilità. Così infatti probabilmente non avverrà, ma i tempi si restringono. E ripeto, i motivi non sono di contenuto, ma sono di scelte e strategie politiche assolutamente legittime, basta capirsi. Oggi è il giorno in cui però lo spread torna sotto i 300 punti. Ora voi ricorderete, ma torna a 287 punti. Ne parleremo anche dopo, perché però forse una campana anche adesso si potrebbe dare. 287 punti è il livello, poi lo ricorderemo, che Monti indicò come suo obiettivo, cioè la metà del picco toccato in una terra 560, quindi manca ancora qualche punto. Dai, campane. Dicevo 287 punti, soprattutto per la Grecia, nel senso che Standard & Poor's ieri, come ricordavamo, ha alzato il voto alla Grecia dopo che la Grecia ha compiuto con successo l'operazione di buyback, di riacquisto del suo debito, di parte del suo debito. E, tra l'altro, oggi si è saputo dal Financial Times che un fondo speculativo, hedge fund, guidato da Dan Loeb, ha guadagnato mezzo miliardo di dollari scommettendo che la Grecia si sarebbe salvata e quindi non sarebbe stata costretta a uscire dall'area euro. Ciononostante, l'industria dei fondi altamente speculativi, che vale 2.000 miliardi di dollari, degli hedge fund, dei fondi altamente speculativi, continua ad avere difficoltà e perdono anche loro. Per esempio John Paulson aveva scommesso sul crollo del mercato immobiliare americano, che non c'è stato, e quindi il suo fondo ha perso il 60% del valore dal 2010. Questo a dire che perdono, e anche tanto, anche gli speculatori in borsa, non solo i cassettisti. Sullo spread, ripeto, le variabili sono soprattutto di carattere internazionale. C'è chi dice allora non è colpa di Berlusconi, c'è chi dice che 10 anni, che invece, così, con un'espressione non molto corretta, non molto elegante, lecchiamo qualcosa all'ex premier. No, guardi, secondo me né una né l'altra, però insomma, ognuno lo può pensare come vuole. Quello che è chiaro è che in questo momento la situazione greca e in tutta Europa il rischio di non tenuta dell'euro si è completamente allontanato. C'è anche chi dice, ma poi ne parleremo con il nostro ospite, che l'ipotesi che Monti scenda in campo, abbia un suo schieramento politico, va a favore di uno spread più basso, e così come il fatto che Berlusconi non abbia ancora deciso se candidarsi veramente oppure no, se essere il capolista oppure no. E che questo sarebbe appunto a favore dello spread. Ma andiamo avanti. Per quello che riguarda invece l'America, il presidente Barack Obama ha invitato i repubblicani a colmare le differenze, a trovare una soluzione ragionevole sul fiscal cliff oggi. E beh, entro il 31 dicembre l'America o trova un accordo per aumentare le tasse, come chiede Obama, e ridurre anche alcune spese, o se no in automatico verranno meno tutto un insieme di incentivi fiscali e di agevolazioni fiscali, così come scatteranno anche un insieme di tagli che secondo le stime potrebbero portare all'economia americana a perdere il 5% del PIL l'anno prossimo. Sarebbe veramente un dramma, ecco perché si chiama scoglio o scogliera fiscale, fiscal cliff. Si prevede che un accordo verrà raggiunto, però per ora l'accordo non c'è ancora, perché Barack Obama ha opposto il proprio veto al piano B dello speaker della Camera John Boehner. Se dovesse essere approvato, infatti, la Casa Bianca non lo farà passare, anche se lo approvasse la Camera. La borsa, allora, di nuovo Milano è la migliore, devo dire che da venerdì scorso, vado a memoria, anche giovedì forse, più 1% Milano, più 0,40 Parigi, più 0,26 Francoforte e più 0,48 Londra. L'America è invariata, l'euro è di nuovo in leggero rafforzamento a 1,3261. A casa nostra, con lo spread basso ai minimi da tempo, poi ne parliamo, vanno bene in primo luogo i titoli bancari, che hanno molti titoli di Stato, molte obbligazioni, che hanno comprato quando rendevano tanto, quando lo spread era alto, e quindi aumenta di fatto il valore del loro investimento quando poi lo spread scende e quindi i rendimenti scendono. Se tu hai una cosa che rende tanto, la paragoni alla stessa cosa che ora rende di meno, chiaramente hai un valore. UbiBanca più 3,66%, UniCredit più 3,20%, Popolare di Milano più 2,30%, UniCredit diciamo più 3,26%, bene anche però Buzzi Unicem più 5,92%, Tenaris più 2,80%, Parmalat più 2,30%, ST Microelectronics più 2%, DS Orin più 1,80% come in pregilo, e la Popolare Emilia Romagna, bene anche Campari più 1,80%, Mediobanca più 1,60%, Luxottica più 1,5% come il Banco Popolare, Prismian più 1,30% come Eni. Finmeccanica meno 0,90%, Pirelli meno 0,80%, Lottomatica meno 0,50%, Azimut meno 0,40%. E poi, per quello che riguarda sempre le notizie di carattere internazionale, multa da $1,5 miliardi alla banca svizzera, che è la prima banca svizzera, UBS. Anche questo sarà un approfondimento di Focus Economia oggi. $1,5 miliardi per lo scandalo Libor. Libor è sostanzialmente l'Euribor dei paesi anglosassoni, il tasso di prestito interbancario che viene utilizzato per calcolare i mutui a tasso variabile, no? Chiunque abbia un mutuo a tasso variabile sa che la banca ti applica dei punti in aggiunta all'Euribor. Allora, l'accusa, ricorderete, che coinvolse grandi colossi bancari britannici è che le banche si fossero messe d'accordo in Gran Bretagna, in primo luogo, per tenere alto questo Euribor, e quindi per non andare veramente, questo Libor, scusatemi, per non andare veramente in concorrenza. È un cartello di fatto, no? Quello di cui furono accusate anche le compagnie di assicurazione italiane circa 7-8 anni fa sulle RC auto, e quindi un cartello per mantenerlo alto alla faccia della concorrenza. E siccome in Gran Bretagna su queste cose sono seri, la FSA, che è l'autorità, la Consob britannica, ha riscontrato che tra 2005 e 2010 la banca svizzera ha manipolato i tassi coinvolgendo numerose persone, compresi manager e senior manager, che hanno partecipato o erano a conoscenza della manipolazione, cioè veniva artatamente e artificialmente mosso verso l'alto per far guadagnare la banca. Risultato: UBS è condannata a pagare una multa da $1,5 miliardi a Stati Uniti, Gran Bretagna e Svizzera. Parleremo, oltre che dello scandalo Libor, della multa e dell'iter, della legge di stabilità, anche di quanto ha deciso, lo avete sentito nei nostri GR, il giudice di Milano Oscar Maggi, che ha condannato, obbligandole a pagare 1 milione di euro ciascuna, 4 banche, Deutsche Bank, UBS di nuovo, JP Morgan e Depfa Bank, per la presunta truffa sui derivati stipulati dal Comune di Milano nel 2005. È uno dei primi processi a livello internazionale in cui le banche vengono accusate di avere truffato, in questo caso un ente pubblico come il Comune di Milano, non illustrando i rischi dei prodotti che venivano venduti. Avrebbero infatti le quattro banche raggirato l'amministrazione comunale stipulando nel 2005 uno swap trentennale. La giunta era quella di Albertini, poi rinnovato sotto la giunta Moratti, e senza informare, come dovuto invece, il comune di tutti i rischi dell'operazione. Questo era l'impianto accusatorio del procuratore aggiunto Alfredo Robledo, e appunto il giudice ha riconosciuto colpevoli i quattro istituti sulla base della legge 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. Vedo alcuni che festeggiano al 349-238-6666 la decisione del PM del giudice di Milano. Sì, faccio solo una nota. Alfredo Robledo è lo stesso PM che sta indagando sulla Regione Lombardia e coi 40 consiglieri. Allora, o uno crede sempre alla magistratura o non crede mai. Non è che puoi applaudire quando condannano le banche e dire che invece sono giudici di parte, come scrivono alcuni ascoltatori, quando indagano sulla politica e su alcuni partiti, magari uno non è d'accordo. Un po' di coerenza, magari, no? Terremoto, 2 miliardi e 666 miliardi di aiuti all'agricoltura italiana, le ha autorizzati oggi la Commissione europea. Un aiuto di Stato da 2 miliardi e 660 milioni a sostegno della ripresa dell'agricoltura dopo i terremoti che hanno colpito nel maggio scorso Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Gli aiuti vanno a 1000 imprese agricole che producono, trasformano, vendono prodotti a partire dal grana, ma non dal parmigiano reggiano, ma non solo. Stavo dicendo una bestemmia, chiedo scusa a tutti gli emiliani. E sempre la Commissione europea ha dato il via libera al regolamento emendato dell'IMU che prevede l'esenzione per le attività di carattere non economico, giudicando incompatibili le precedenti esenzioni dell'ICI alle attività non commerciali e quindi quello che riguarda anche la Chiesa Cattolica. Però l'Italia non dovrà recuperare gli aiuti concessi tra il 2006 e il 2011, non perché la Commissione europea dice che sono aiuti illegittimi, però non li può recuperare viste le difficoltà, l'impossibilità al recupero che ha paventato l'Italia stessa. Ancora due dati sull'Italia: il fatturato dell'industria cala a ottobre dello 0,2% e su base annua del 4,7%, purtroppo è il decimo calo consecutivo nel fatturato della nostra industria. Anche gli ordini segnano il passo in negativo. Il fatturato in termini grezzi resta fermo a settembre ed è negativo su base annua, resta fermo rispetto a settembre ed è negativo rispetto a ottobre del 2011 di uno 0,1%. Presidente del Consiglio sarà a Melfi per la presentazione del nuovo piano di sviluppo dello stabilimento Fiat, scusatemi, e sempre sul fronte della nostra industria si è chiuso positivamente, e questo è un buon dato, l'anno per le imprese italiane che costruiscono macchine utensili, robot e automazione. Le macchine utensili sono macchine che servono a produrre altre macchine. Noi siamo leader anche in questo settore, nella produzione di macchine utensili, quindi macchine che poi hanno il compito di produrre altre macchine, mettiamola così, robot e automazione. I dati elaborati da Ucimu, sistemi per produrre, la produzione italiana è cresciuta a 4 miliardi e 930 milioni, più 3,5%. Anche qui, attenzione però, se un settore importantissimo come le macchine utensili e tutte le macchine per l'automazione e i robot va bene, è tutto grazie all'export, più 12% l'export, 3 miliardi e 650 milioni di macchine utensili abbiamo esportato quest'anno, eh? Complimenti agli imprenditori del settore, mentre il mercato italiano ha fatto un meno 13%. Prima di arrivare alla legge di stabilità, purtroppo, lo dico sempre, non è una rubrica a cui teniamo, ma tant'è, oggi notizie un po' più brevi, ma una pesante, a mio avviso, perché delle volte non si capisce se la classe politica, anche regionale, si rende conto del distacco, delle volte siderale, rispetto al resto del paese. 349-238-6666 per i vostri sms e poi Facebook. In bianco il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blu. No, dicevo questo perché ogni consiglio regionale può fare quello che vuole, ci mancherebbe, ma mi chiedo se il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si sia reso conto di quello che ha fatto ieri in tarda serata, già le decisioni prese notte tempore sono sempre decisioni un po' così, cosa ha fatto. E la cosa che mi fa più impressione, mettiamola così, è che con i voti sia della maggioranza di centrodestra che dell'opposizione di centrosinistra si è reintrodotto i vitalizi per i consiglieri, anche se dalla prossima legislatura saranno calcolati con il sistema contributivo e non con quello retributivo, ma insomma non si capisce perché li hanno abrogati esattamente un anno fa, il 20 dicembre del 2011, ok? E a distanza di un anno li reintroducono con un emendamento, quindi qualcosa di nuovo che emendava rispetto alla legge introdotto in tarda serata verso le 11 di sera, magari quando i giornali sono già chiusi, non lo so, lo stanno chiudendo. E poi sempre sulle regioni che si lamentano dei tagli, per carità, però la regione Lombardia, nel massimo non rispetto, nel massimo diritto, ha pubblicato oggi il piano di comunicazione della regione. Non c'è un euro di tagli. Cioè, la regione Lombardia spenderà 3 milioni di euro per finanziare anche la campagna elettorale. Ne ha spesi 3 milioni quest'anno di comunicazione, 2 milioni 950 mila. Uno dice, ma con la crisi che c'è, con i consumi in calo, magari la regione taglia? No, 3 milioni anche l'anno prossimo. La parte, nonostante il taglio dell'80% chiesto dalla legge 122 del 2010, la parte del Leone spetta sempre la voce servizi per agenzie di stampa, Lombardia Notizie, il 42% del budget. Il costo comprende gli stipendi del direttore e dei 12 giornalisti che lavorano lì, le fotografie e le schede informative, le repliche, insomma tutta l'attività di comunicazione. E poi, perché il piano dice, le regioni con un deficit di immagine da recuperare dovranno potenziare la comunicazione istituzionale. E un capitolo a sé riguarda poi la partita delle elezioni anticipate, perché è prevista la creazione di un sito internet per informare i cittadini sulle modalità di presentazione delle liste, le procedure di voto. E vabbè, la regione punterà molto anche sulla corrispondenza tra i cittadini e Formigoni, per cui gestire un sistema di risposte multicanale sempre più personalizzate, la possibilità per tutti i dipendenti della giunta di commentare news redazionali ed eventi. E poi per il 2013, sempre con questi 3 milioni, verranno organizzati anche eventi tradizionali come il saluto ai pensionati, e l'eventuale accoglienza di nuovi assunti. Che dovevi fare col nuovo assunto? Gli farai l'accoglienza e la consueta convention della dirigenza del sistema regionale. Va tutto bene, per carità, la comunicazione si fa. Dico semplicemente che se l'obiettivo è recuperare il deficit di immagine, oltre che i 3 milioni spesi, forse converrebbe avere anche meno, lì come in altre regioni italiane, meno consiglieri indagati. Lo do come consiglio di chi fa comunicazione: secondo me, con meno consiglieri indagati, una regione recupera anche la sua immagine. Voglio che vi alziate proprio adesso, che andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. Insomma, è un'ipotesi, è un'idea, insomma, lasciatevelo dire da chi un po' di comunicazione la fa: meno consiglieri hai indagati, più migliora la tua immagine. Così. So che sembra strano, però. Vabbè, noi intanto festeggiamo lo spread sotto i 300 punti, a un livello 287 punti. Qualcuno ricorderà Monti che disse il 3 dicembre: il mio obiettivo è 287, ossia la metà di quando toccò il picco, 560 punti durante le dimissioni di Berlusconi. E riascoltiamo quel Monti. La giornata di oggi per lo spread è positiva perché siamo scesi sotto il 300 e desidero anche confessare che per me c'è un livello di spread che è di 287 punti base che rappresenta, e spero che sia presto toccato, un punto di particolare significato, perché sarebbe esattamente la metà dei 574 con i quali il nostro percorso è iniziato. Poco fa Berlusconi a pomeriggio 5 su Canale 5, ricostruendo il momento del suo passo indietro nel novembre 2011, ha detto: ho chiamato lo spread un imbroglio e continuo a considerarlo un imbroglio. Ora, anche questo è un giudizio politico e va benissimo. Faccio notare che quando un imprenditore va in banca, lì più che l'imbroglio becca l'aumento del costo per avere denaro. Lo spread, infatti, quanto costa all'Italia poi indebitarsi, e le banche te lo applicano di conseguenza, oltre che avere dei costi, visto che noi paghiamo 70-80 miliardi l'anno di interessi sul debito. Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Guido. Buonasera a voi. Prima di arrivare alla legge di stabilità, perché tutto questo, sei d'accordo che per migliorare l'immagine di qualunque regione, non dico solo la regione Lombardia, anche avere meno consiglieri indagati possa servire? Perché mi sembra un po'... Beh, direi che siamo, da questo punto di vista, purtroppo ci riscopriamo ogni giorno all'anno zero. Non è così, ovviamente. Bisognerebbe che su questi temi ci fosse, diciamo, una maggiore dignità politica. Dico questo perché, insomma, siamo ad argomenti che non dovremmo nemmeno più commentare. Ecco. Lo so, dillo a me quanto... No, ma tra l'altro, più che la Regione Lombardia che spende 3 milioni di euro per la comunicazione, che tanti o pochi, la cosa che fa impressione, lo dico a chi scrive, è che non hanno tagliato un euro. Ora non si può continuare a dire che qua bisogna tagliare, poi quando tocca loro non tagliano mai. Ma a me ha fatto anche più impressione la regione Friuli Venezia Giulia. Stiamo cercando il presidente della regione, perché con un emendamento a notte tempo alle 11 di sera reintrodurre i vitalizi in questo periodo, io non lo so. Cioè... Sì, è veramente. Cioè, è io non, ma proprio come comunicazione, io non dico per i soldi in sé, ma come comunicazione, c'è cioè un paese che tira la cinghia. Vabbè, Guido, parla tu che è meglio oggi. No, voglio dire, è comunque anche un autogol, se lo vogliamo analizzare solo dal punto di vista politico, una mossa di questo genere, no? Siamo in questa stagione, quindi fare degli atti di questo tipo con riunioni notturne in cui vengono reintrodotti dei provvedimenti come appunto i vitalizi, fatti in otto tempo, beh, insomma, la dice lunga su come, diciamo, la politica vive questo momento, cioè, o meglio, non vive questo momento, è un altro mondo, diciamo. Sì, no, dico, poi se la politica su base nazionale non ce l'ha fatta nemmeno a riformare la legge elettorale, nonostante gli appelli del Presidente della Repubblica, e poi si comporta così, io dico, per favore, non mi scrivete più, lei porta voti a grillo. Io non porto voti a nessuno, io leggo quello che accade. Se poi un ascoltatore in base a quello che diciamo decide di votare da una parte o dall'altra, sono fatti i suoi, ma prima che accusare sempre, no? Il dito, guardate la luna ogni tanto. Vabbè, Guido, invece con te vorrei parlare della legge di stabilità. Primo commento, poi dopo il metodo ti faccio fare l'analisi più politica. Uno spread a 280 punti vicino al livello che voleva Monti è dovuto, secondo te, più alla Grecia, che ieri ha avuto un aumento di voto da parte di Standard & Poor's, e comunque al dissolversi, perlomeno per ora, delle preoccupazioni sulla tenuta dell'euro, o a una situazione politica italiana che risulta, quindi una variabile interna, meno problematica? Ormai si va a elezioni nell'arco di due mesi e mezzo. Ma certamente, quindi, o siamo di fronte a un puro caso, o siamo di fronte, appunto, come dicevi tu, mi ricordavi tu, a un riflesso di una situazione in Grecia molto migliorata, almeno dal punto di vista di quello che è il rating del paese che viene dato dalle agenzie di rating, che quindi contribuisce ad abbassare anche il nostro spread, oppure siamo in presenza, come io ritengo forse la cosa in parte più probabile, a, diciamo, l'altra faccia di quello che accade dal punto di vista politico in Italia, e quindi, diciamo, con Monti in qualche modo in campo dal punto di vista politico, diciamo che lo spread in qualche modo si adegua e quindi scende, visto che dall'Europa è stata chiesta continuità di azione su questo fronte. Poi ovviamente si possono avere su questo delle tesi molto diverse sul perché scenda, ad arrivare fino a quello che appunto ha detto l'ex presidente del Consiglio Berlusconi, che dice lo spread è un imbroglio. ...17:39 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Dunque, Guido Gentili, oggi per quello che riguarda la legge di stabilità ci sono anche notizie positive: 115 milioni in più per le non autosufficienze per la SLA, ci sono anche 100 milioni in più per il fondo ordinario all'università, 52 milioni in più per i policlinici universitari non statali, quindi i Bambini Gesù di Roma 12 milioni e mezzo e 5 milioni alla Fondazione Gaslini. E poi qualche cosa invece meno bella, mi avviso, che può lasciare più perplessi. Per esempio, è stato praticamente svuotato tutto l'impianto del governo sul gioco d'azzardo come gioco d'azzardo patologico. Ricorderete la prima versione in cui non si poteva mettere una slot machine a distanza da vari edifici, tutto un po' svuotato. Addirittura è saltata la proroga per le gare per aprire nuove case da gioco, per cui si potranno aprire nuove sale da poker, contrariamente a quanto prevedeva l'emendamento. Il ministro Balduzzi ha detto: sono sconcertato per gli emendamenti notturni sul gioco d'azzardo patologico, che sembrano invertire la direzione del governo. Anche qui in serata, Commissione Bilancio del Senato, subemendamento del PDL, magari non so, qualche... sarebbe interessante capire perché tutta questa attenzione verso l'apertura di nuove sale da gioco. Non mi sembra che, essendo una patologia la dipendenza da gioco d'azzardo, vabbè, anche così andiamo avanti. E poi invece è abrogata la norma sui pneumatici da neve, questo interessa forse gli automobilisti, la norma del decreto sviluppo che imponeva l'uso dei pneumatici termici al di fuori dei centri abitati in caso di neve è stata abrogata. Ma al di là di questo, vorrei sapere, ce la fa il governo, il Parlamento, a approvarla, secondo te, nei limiti, e cioè entro il 31 dicembre? Sì, io penso che questa data sarà rispettata, perché l'alternativa è secca. Andremo all'esercizio provvisorio di bilancio con tutto quello che ne consegue, non solo in termini di contabilità interna, ma di immagine all'estero, che sarebbe devastante. E quindi io credo che da questo punto di vista i termini saranno rispettati. Questo ovviamente, la previsione era che questa legge venisse approvata definitivamente entro questa settimana, per poi procedere immediatamente prima di Natale allo scioglimento delle Camere, e probabilmente, diciamo, si riterrà di qualche giorno, e questo consentirà a sua volta, diciamo, di posticipare. Si era parlato del voto per i primi di febbraio, e poi si è parlato di una possibilità del 24 di febbraio, poi ancora una possibilità del 3 di marzo. Questo consentirà, diciamo, di spostare di uno o due settimane in avanti la data del voto, perché la partita si sta giocando ovviamente alle Camere sul sulla legge di stabilità, come hai detto tu, con tutti i provvedimenti che ci sono. Purtroppo questa è diventata una legge come una finanziaria qualunque che abbiamo vissuto per tanti anni negli anni passati. Ci sono tutti dei micro provvedimenti, delle cose importanti e utili, come diciamo un adeguamento ulteriore ad esempio delle risorse per i malati di SLA, ma ci sono anche tanti altri provvedimenti, dei micro provvedimenti che possono essere diciamo inquadrati tranquillamente nella solita campagna elettorale. All'assalto alla diligenza. Esatto. Ma il motivo per cui c'è bisogno di più tempo, io ho ipotizzato, potrebbe essere appunto perché alcuni emendamenti vanno modificati, non convincono, oppure potrebbe esserci un motivo che va al di là dei contenuti della legge di stabilità, chiamiamola anche legge finanziaria che è uguale, e cioè tattica politica. In questo secondo caso, su cui tu mi sembravi propendere, quale sarebbe la tattica? Facci capire. La tattica sarebbe diciamo di approfondire quanto più possibile, e dico approfondire tra virgolette, il confronto sulle misure di merito che riguardano la legge di stabilità, ma con un occhio rivolto al calendario politico e quindi di rallentarne l'approvazione per arrivare poi diciamo a uno sbocco politico elettorale appunto per la fine di febbraio o inizio di marzo. Questo riguarda in particolare il PDL che sta su questo insistendo. In più ci sono delle perplessità generali su quelle che è diciamo il decreto prospettato del governo sulla formazione delle liste, sulle modalità, la presentazione delle firme eccetera, e quindi tutto questo fa sì diciamo che il terreno della legge di stabilità è diventato cruciale per quanto riguarda il calendario politico. E quindi tutti gli aspetti che si sia preso tempo, ma poi entro 28-29 insomma la cosa passi, entro 28-29 dicembre passi, certo. Sì, sì. Perfetto, vedremo, anch'io me lo auguro adesso, cioè, va bene tutto, ma andare con, ripeto, visto che ce lo chiedete, l'esercizio provvisorio, Guido, non è tanto che creerebbe danni concreti, ma è l'immagine che darebbe all'esterno, cioè come un'azienda che non riesce a approvare un bilancio e va in esercizio provvisorio, vuol dire che il paese, che la classe politica non riesce a mettersi d'accordo sulla legge finanziaria, non è tanto diciamo concretamente cosa capiterebbe ai singoli cittadini, ma l'immagine che proiettiamo fuori. Nulla, abbiamo avuto negli anni passati il caso di esercizio provvisorio e non è successo nulla, non è che il paese si sia fermato, però in questo momento prima parlavamo dello spread, ecco, insomma, sarebbe un buon motivo per cui lo spread potrebbe rialzarsi, ecco. Minuti, allora dicevamo di quello che ha deciso oggi, due in realtà decisioni, una riguarda il giudice di Milano, Oscar Maggi, che ha condannato Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e DEPFA Bank, 1 milione di euro ciascuna, l'altra è la decisione invece, anch'essa molto pesante, per lo scandalo Libor, e la Consul britannica ha chiesto a UBS di pagare 1.530 milioni di dollari di multa per aver manipolato il tasso interbancario di riferimento per i mercati finanziari a loro vantaggio, a suo vantaggio. 349-238-6666 per gli SMS. Due storie diverse, ma due storie in cui che hanno sempre al centro le banche. Iniziamo da quella italiana, la nostra Raffaella Calandra, Palazzo di Giustizia. Raffaella, buonasera. Buonasera Sebastiano. Allora, il giudice ha accolto sostanzialmente le richieste del procuratore aggiunto Alfredo Robledo e quindi ha deciso e valutato che cosa rispetto a queste quattro banche che sono Deutsche Bank, UBS, JP Morgan e DEPFA Bank? Di fatto ha emesso la prima sentenza al mondo, pare, per i derivati, sull'uso dei derivati. Ha stabilito, come dicevi, una multa da 1 milione per quattro tra i principali istituti di credito al mondo e una confisca complessiva di 88 milioni considerati frutto di reato. In quest'aula piena della stampa internazionale, e anche questo è indicativo anche dell'importanza l'importanza di questo verdetto, il giudice ha emesso la sentenza di primo grado per la presunta truffa da 100 milioni sui derivati al Comune di Milano, condannando appunto UBS, JP Morgan, Deutsche Bank e Deutsche Bank, che nel 2005 fecero stipulare a Palazzo Marino uno swap trentennale su un bond da 1,68 miliardi, un'operazione su cui gli istituti di credito, questo è il significato della sentenza, avrebbero male informato il Comune, che a sua volta non era assistito da esperti finanziari, ha commentato subito il procuratore aggiunto Alfredo Robledo, a commento appunto di una sentenza che di sicuro sarà apripista anche per le altre centinaia di processi aperti in tutta Italia sui derivati. Sentiamo che cosa ci ha detto proprio il procuratore Robledo dopo il verdetto. Non lo so se finisce un'epoca, certamente potrebbe cominciarne una nuova con questa sentenza, che secondo me è una sentenza storica, che pone per la prima volta un principio importante, che è la necessità della trasparenza, specialmente nei rapporti con gli enti pubblici e denaro pubblico. In Italia vi sono centinaia di enti locali che non hanno concluso contratti di questo tipo e che non sono mai stati assistiti da tecnici. Dovrebbe insegnare anche l'esempio inglese, perché in Inghilterra per esempio i derivati di fatto sono stati proibiti. In Inghilterra le banche hanno le sedi a Londra, ma in realtà in Inghilterra non fanno nulla. L'Italia è stata, a mio giudizio, una terra di scorribande sotto questo profilo. Perché? Perché c'è una mancata attenzione più in generale da parte dell'autorità. E ripeto, io trovo preoccupante che nessun ente locale sia mai stato assistito da una consulenza adeguata, cioè o da fisici quantistici o da matematici finanziari, che sono gli unici che possono capire questi meccanismi. La legge, sia pure tardi, è intervenuta e ha vietato nuovi contratti. Quello che il pubblico ministero ha sostenuto nella mia persona è che il guadagno vero delle banche è all'inizio, è immediatamente all'atto del contratto. Non ha importanza in un certo senso rispetto all'accusa come si sia svolto nel corso degli anni il contratto di swap. Il guadagno vero all'inizio sono soldi veri ed è un guadagno nascosto. Che tipo di ricadute potrà avere questa sentenza nei rapporti tra enti pubblici e banche? Mi auguro ovviamente una maggiore attenzione da parte degli enti pubblici, una maggiore considerazione degli interessi generali. Così il PM che ha istruito l'inchiesta. Resta con noi Raffaella, perché sempre dei derivati si parla in quella che è un'altra multa storica. Oggi non è una bella giornata per i colossi della finanza, perché tra l'altro in questo periodo anche Standard & Poor's ha perso una class action in Australia, quindi insomma. Ma dicevo, la condanna a 1,5 miliardi di multa per il colosso bancario svizzero UBS. UBS paga tre volte quanto pagò quest'estate Barclays a giugno, 450 milioni di euro per lo stesso scandalo Libor, e pagherà 1,2 miliardi alle autorità americane, 160 milioni di sterline alla Consob inglese, e anche alla Consob finanziaria svizzera pagherà 59 milioni di franchi svizzeri. Dicevo, manipolazione del tasso interbancario di riferimento per migliorare le proprie posizioni nel trading, nella compravendita di titoli anche derivati. Lino Terlizzi dalla Svizzera, buonasera. Buonasera. Il motivo di questa multa salatissima, sta nell'aver detto anche UBS ha avuto una parte, però una multa tre volte più alta, sembra quasi che le autorità indichino in UBS un responsabile anche maggiore. Le cifre dicono questo, in effetti. La notizia era nell'aria, era attesa da giorni, non si conosceva la cifra esatta, che è superiore alle previsioni. Si era parlato circa $1 miliardo negli ultimi giorni, e invece effettivamente qualcosa di più, quindi è stato valutato che il grado di coinvolgimento di UBS insieme a molte altre grandi banche internazionali però sia elevato. La reazione della banca? La reazione della banca è una reazione prevedibile dal punto di vista di una nuova leva di top manager, perché il punto è questo: qui sono venuti, come spesso accade, al pettine dei nodi che riguardano il passato, comunque gli anni scorsi. Adesso il vertice UBS è in gran parte diverso, e quindi certamente non è una cosa piacevole prendere una botta di questo tipo. Ma prevede anche azioni di risarcitorio nei confronti degli ex manager UBS? Questo non è dato sapere al momento. Perché uno potrebbe però anche dire, vabbè, se hai fatto un danno alla banca, caro manager, visto che prendi anche delle buone uscite milionarie, ridacci qualcosa. Penso, immagino. Questo potrebbe essere, ma non è stato ancora detto. Però è certo, ed è stato annunciato questa mattina, che da 30 o 40 dipendenti della UBS se ne devono andare, e qualcuno se n'è già andato. Quindi questo è stato. Ma coinvolti nello scandalo Libor? Sì, certo. Ah, ecco. Quindi saranno dipendenti, immagino, di alto livello. No, lo dico perché il Libor è il tasso interbancario che viene calcolato ogni giorno dall'Associazione Bancaria Britannica, the British Bankers Association, tramite la media di 8 valori centrali forniti da 16 grandi banche. E un tempo veniva definito il numero più importante al mondo, perché è quello su cui poi stabilisci prestiti, mutui e conti correnti in migliaia di contratti. Pensate che il valore dei titoli per i quali il Libor costituisce il principale tasso di riferimento, cioè uno dice ti darò il 2% più del Libor o l'1% più del Libor, il valore dei titoli è pari a 350 mila miliardi di dollari, 350 mila miliardi di dollari. Oh, questo per dare l'idea di che cosa stiamo parlando. Modificare anche di uno 0,1 quel tasso significa avere guadagni enormi. Ci sono novità in arrivo anche per Credit Suisse e altre banche, perché per ora hanno pagato Barclays e UBS. Per ora non abbiamo notizie qui in Svizzera al riguardo, però è probabile, perché ci sono anche le altre banche, in effetti non sappiamo ancora quali esattamente. Beh, quasi tutte. Non è facile indovinare che ci saranno altri provvedimenti. Beh, perché sono oltre UBS e Barclays sono Credit Suisse, Société Générale, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Barclays appunto, HSBC, Royal Bank of Scotland, JP Morgan Chase e Citigroup, praticamente nessuno escluso. Lino, grazie, perché ci interessava unire questa notizia che arriva dalla Svizzera con, invece, sempre in tema di derivati, quello che ha deciso oggi il giudice a Milano. E torniamo con Raffaella Calandra, perché Raffaella, i legali delle banche come hanno risposto? Chiaramente la delusione da parte dei difensori delle banche e anche dei difensori dei manager, perché 9 su 13 manager sono stati anche condannati e oltretutto interdetti per un anno dai pubblici uffici, tra loro anche il figlio dell'ex governatore della Campania, Bassolino, già manager in UBS. Le banche chiaramente preannunciano ricorso in appello, ma contestano soprattutto, trovano cioè contraddittoria questa condanna con l'accusa di falsa testimonianza che è stata mossa in aula dal giudice ad una delle principali accusatrici, Angela Casiraghi, già direttore centrale finanza della Comune di Milano. Questo ad esempio è uno dei punti sollevati soprattutto dall'avvocato Giorgio Perroni per JP Morgan. Sentiamolo. Questo processo che, ripeto, secondo me non rispecchia quello che è emerso durante il dibattimento. Ovviamente le sentenze si rispettano, io non la condivido, la considero ingiusta, la impugneremo. Innanzitutto bisogna capire bene anche quella parte del dispositivo in cui viene trasmessa al pubblico ministero la posizione della Casiraghi per la falsa testimonianza, che era la nostra principale accusatrice, e quindi c'è da capire come questo si concilia con la pronuncia di condanna. E poi dal dibattimento, a mio avviso ovviamente, era chiaramente emerso che gli imputati si erano comportati correttamente. Comunque bisogna aspettare le motivazioni e impugnare. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, dopo esserci occupati della legge di stabilità da un lato e dall'altro anche delle doppie sentenze, una contro le banche che hanno venduto derivati al Comune di Milano, l'altra invece con una multa più che una sentenza a UBS, 1,3 miliardi, molto molto alta per lo scandalo Libor. Adesso andiamo alla borsa, dicevo la migliore tra quelle principali anche oggi, Milano più 1,10% grazie a uno spread sceso anche sotto quota 290 per alcuni momenti, sotto quota 300 punti in generale. Bene già questa mattina Tokyo più 2,3% dopo un extra budget, un annuncio di un extra budget di 90 miliardi di euro per sostenere l'economia, cioè il Giappone che tutti citano come la sindrome giapponese, è vero, 10 anni di stagnazione e inflazione bassa, però il Giappone ha stanziato 90 miliardi di euro per far ripartire l'economia e anche i consumi interni. Non lo dico perché l'area euro dovrebbe interrogarsi ogni tanto su quello che fanno gli altri. Comunque, borsa, sì. Più 6,60 Buzz Unicem e poi le banche, più 4,40 UbiBanca, più 3,20 Unicredit, più 2,13 Popolare Emilia Romagna, più 2% Popolare di Milano e poi poco altro come banche, mi sembra di poter dire che ci sia, Intesa San Paolo chiaramente più 0,31%. Eleonora Micheli, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Banche le abbiamo già archiviate, lo spread è basso e quindi le banche si avvantaggiano, Buzz Unicem invece. Sì, Buzz Unicem è stata, diciamo, Deutsche Bank a accendere i riflettori sulla società, ma facendo riflessioni molto interessanti. Buzz infatti dovrebbe soffrire nell'anno venturo in Italia per ovviamente l'andamento dell'economia, tuttavia dovrebbe espandersi molto in mercati che potenzialmente andranno bene, come quello della Russia e del Messico, e probabilmente queste riflessioni hanno appunto incoraggiato gli ordini in acquisto, fatto sta che è stata la migliore del FTSE MIB. Bene anche comunque Tenaris più 3,11%, Parmalat più 2,60, Diasorin più 1,80, non ho citato forse Mediobanca più 1,90, Impregilo anche qui costruzione più 1,80%. Invece ha ceduto Finmeccanica lo 0,70%. Domani il CDA, il Consiglio di Amministrazione, dovrebbe esaminare la cessione delle controllate, ma potrebbe esitare tutto anche la vicenda AVI, prego. Esatto, soprattutto si puntava sulla cessione di Ansaldo Energia, ma proprio il Sole 24 Ore sostiene che potrebbe essere rimandato tutto al 2013 e quindi il CDA dovrebbe concludersi, potrebbe, con un nulla di fatto su Ansaldo Energia, per la quale ricordiamo ci sono tre cordate in gara, cioè in particolare una guidata dal Fondo Strategico Italiano, poi ci sono i coreani e della Doosan, e quindi poi c'è l'azienda. Vabbè, quello poi ci verrà in mente. Sì, però, Siemens. Mi veniva il nome, la tedesca Siemens, che pare però ultimamente che si sia un po' defilata. Detto questo, sì, potrebbero invece arrivare delle notizie su Avio, di cui Finmeccanica detiene una partecipazione pari al 14%, pare che sia molto vicina alla firma con General Electric, si parla addirittura di oggi, vediamo che cosa succederà nelle prossime ore, però la delusione è soprattutto per Ansaldo Energia. Andiamo avanti, Telecom poco variata, tra l'altro il debito difficilmente, se abbiamo capito, scenderà sotto i 28 miliardi, ma per quello che riguarda invece i titoli più sottili, Telecom Italia più 0,30%, segnalo Class Editori più 32% nel giorno in cui il Rizzoli Corriere della Sera ha presentato il piano industriale, e segnalo anche e soprattutto ERG più 9,85%, quindi Class, Rizzoli e ERG. Sì, Class, in verità c'è anche una notizia sulla società, in particolare il fondo di private equity Rainbow Finance ha rilevato il 33% della concessionaria di pubblicità direttamente dalla Class Editori. L'operazione è piaciuta al mercato e quindi le azioni, che comunque stanno su prezzi molto bassi, sono volate del 32%. Detto questo, come hai detto tu, oggi ho focus su un po' il comparto editoriale. La RCS ha presentato il piano di rilancio, che si basa soprattutto anche sul rilancio internet, dal quale entro il 2015 verranno maggiormente i ricavi della società. Comunque la società, pur non indicando la somma, ha confermato che verrà effettuato un aumento di capitale, quindi ovviamente dopo questa notizia le azioni hanno frenato. Nel pomeriggio guadagnavano l'1% e poi hanno chiuso in calo dell'1,1%. Per quanto riguarda invece ERG, c'è stata la presentazione del piano industriale, anche in questo caso 2013-2015, e la cosa interessante che è piaciuta la borsa è che verranno fatti investimenti per circa 500 milioni, con i quali l'azienda si focalizzerà soprattutto sulle energie rinnovabili, che come sappiamo sono apprezzate e vanno di moda in questo momento. Fatto sta che le ERG hanno chiuso la seduta con un progresso di poco inferiore al 10%, più 9,85%. Eh sì, e tra i peggiori invece in assoluto citiamo Telecom Italia Media sul risparmio meno 9,99% e poi poco altro, Ion Renewables meno 8,50%, Ratti meno 3,27%. Grazie a Eleonora Micheli, Radio Colli Sole 24 Ore. Noi restiamo però su ciò che oggi ha mosso i mercati e mi riferisco allo spread italiano, sceso anche a 290 punti, vicinissimo ai 287 indicati da Monti come suo obiettivo, ossia la metà del record che toccò, un po' meno della metà del record che toccò tra fine novembre 2011 e inizio gennaio 2012. Ripeto, non voglio commentare, non è tema di questo programma se lo spread sia un inganno, un imbroglio, come dice Berlusconi. Faccio solo notare, numeri alla mano, che ogni 50 punti in più di spread noi paghiamo circa 1,5 miliardi in più come paese di interessi aggiuntivi sul nostro debito. Lo spread è il costo che noi abbiamo per indebitarci, come quando un cittadino va in banca e vuole un prestito e gli si dice tu paghi questo, non so, il 3, 4, 7% in più. Ecco, lo spread è questo, è il costo di interessi, quanto dobbiamo offrire come interessi per trovare compratori del nostro debito. 50 punti valgono 1,5 miliardi, non bisogna essere dei fini matematici per capire che se siamo di 220-230 punti almeno sotto, vuol dire pagare sostanzialmente 6 miliardi, un po' più di 6 miliardi in meno di interessi sul debito, no, solo per citare le cifre. Dottor Giuseppe Maraffino, strategist sul reddito fisso per Barclays, in collegamento con noi da Londra, buonasera. Buonasera a voi. Allora, mi dica una cosa, è molto semplice la domanda. Questo spread, che è in calo anche in Spagna, è l'effetto, dal vostro punto di vista, del fatto che la speculazione sulla fine dell'euro, sulla Grecia, che sarebbe dovuto uscire dall'euro, è finita per ora, cioè che la Grecia ha ricomprato il suo debito con il buyback e quindi ormai l'operazione Draghi, la famosa frase su cui alcuni sostengono che potrebbe anche diventare l'uomo dell'anno per il Time, la famosa copertina, fino a che sarà necessario sosterremo le economie, ha allontanato progressivamente ogni speculazione o ci sono variabili politiche interne all'Italia, visto che noi ci avviamo a concludere la legislatura di Monti, in generale concludere la legislatura e andare a elezioni? Ma sicuramente una serie di fattori ha contribuito finora a ridurre la volatilità sui mercati e quindi anche a aumentare la propensione al rischio da parte degli investitori di cui ne stanno beneficiando i paesi periferici. Innanzitutto, e secondo noi la cosa più importante, è il forte impegno da parte della BCE a ridurre, se non a eliminare, il rischio di una disintegrazione dell'euro che fino all'estate scorsa era considerato, prezzato dagli investitori ed era anche la componente fondamentale dell'allargamento degli spread che abbiamo visto su titoli governativi non solo italiani ma anche spagnoli e periferici in generale. Il fatto che la BCE sia stata molto convincente solo con l'annuncio del programma di acquisto dei titoli del debito pubblico, questo sicuramente ha portato un grande sostegno al sentiment di mercato. All'inizio di dicembre abbiamo visto un po' di volatilità sul fatto che sull'inizio della crisi politica in Italia, ma questo perché il mercato che aspettava l'inizio di incertezza politica per gennaio è rimasto un po' spiazzato dal timing, ma non dall'evoluzione degli eventi. Sicuramente è stato importante. Cioè, vi aspettavate quello che sta capitando? Cioè, ma non in questi tempi, ma quello che sta capitando, sì? Cioè, il mercato fondamentalmente apprezzava la campagna elettorale, l'inizio della campagna elettorale dopo le vacanze natalizie, verso gennaio-febbraio, visto che le elezioni generali erano state. Si dovevano tenere inizialmente ad aprile, e quindi si sa che la campagna elettorale è caratterizzata da incertezza politica circa l'esito delle elezioni. Poi un paese come l'Italia, nell'attuale fase delicata per l'Europa, con l'importanza anche delle riforme strutturali che devono essere portate avanti, ovviamente questo ha in certo senso ha fatto aumentare il focus dei mercati sulla situazione politica italiana. Il fatto che sia avvenuta prima a dicembre sicuramente ha portato un anticipo dei tempi, però il mercato stava aveva iniziato a considerare la possibilità di un aumento dell'incertezza politica italiana, questo sicuramente. Il fatto che comunque ci sia stato anche un po' l'inizio delle aspettative che ci possa essere una discesa di Monti in campo, o che i vari partiti, alcuni partiti hanno iniziato a parlare di continuazione della riforma delle riforme portate avanti da Monti, questo sicuramente è visto con favore dai mercati. Ripetiamo che i mercati guardano con molta attenzione il fatto che le riforme strutturali che sono state iniziate da Monti debbono essere continuate, e quindi questo diventa una variabile importante che verrà considerato dai mercati nelle prossime settimane. Per concludere, voi vi attendete che da qua alle elezioni, metà febbraio, vedremo esattamente quando, lo spread si mantenga su 300 punti, cioè le scommesse che vengono fatte sono su questo, oppure è presto per dirlo, ci sono troppe variabili in gioco? Allora, sicuramente è presto ancora per dirlo. Quello che noi pensiamo è che sicuramente una campagna elettorale è accompagnata da incertezza politica e quindi da volatilità. Quindi è probabile che ci possa essere un allargamento dello spread a seconda delle reazioni di mercato a commenti e dichiarazioni di strategie a livello politico. Quello che è importante sottolineare, a nostro avviso, è che non pensiamo che ci potrà essere una situazione di stress come nella seconda parte del 2011, perché la situazione sui mercati è totalmente cambiata. Innanzitutto perché la liquidazione da parte dei non resident, dei non domestici dei titoli di Stato italiani è già avvenuta nei mesi scorsi. Adesso lei dice il debito è sempre più in mano nostra, ho capito bene? Il debito sì, è sempre più mano domestica, quindi da questo punto di vista è più stabile. Inoltre non ci aspettiamo grossi flussi di liquidazione che hanno aumentato la volatilità nel passato. Cioè altri investitori esteri che escano, diciamo, dal debito italiano, non ve li attendete? O sicuramente non come è successo in passato. Vabbè, e poi una cosa importante è che sicuramente il ruolo giocato dalla BCE, quindi di dare fiducia ai mercati, e anche il fatto che a livello politico sono stati fatti molti passi in avanti in Europa per tenere la situazione più sotto controllo. Minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora torniamo sui costi della politica in senso generico, ma in realtà oggi ci occupiamo del Friuli Venezia Giulia, che il 20 dicembre 2011, demmo notizie anche noi, un anno fa sostanzialmente, tagliò i vitalizi per i consiglieri per la nuova legislatura, li abrogò esattamente un anno fa. Malinconia deve aver avvolto i consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia, perché ieri in tarda serata, con un emendamento bipartisan, cioè votato sia dal PDL che dal PD, hanno reintrodotto i vitalizi per i consiglieri anche se dalla prossima legislatura, con assegni calcolati con il sistema contributivo e non più con quello retributivo. E siamo in collegamento, lo ringraziamo per la disponibilità, con uno dei consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia, Daniele Galasso, del Popolo delle Libertà. Buonasera. Buonasera. Mi dice che cosa è successo ieri alle 23? Avete votato, dopo che un anno fa avevate eliminato i vitalizi, mo li avete reintrodotti? Ma no, guardi, c'è un malinteso, insomma, qualcuno ha preso un granchio enorme. Noi abbiamo semplicemente adempiuto alle previsioni normative nazionali per la riduzione dei costi della politica. Così è, e questo è incontrovertibile. E un decreto legge del 138 del 2010 aveva previsto il passaggio dai vitalizi retributivi, quindi parametrati all'indennità, ai vitalizi che corrispondevano un quantum legato ai contributi effettivamente versati. Con la finanziaria del 2011 abbiamo provveduto ad abrogare il sistema vitalizio retributivo, e nella stessa norma, al comma successivo, abbiamo precisato che con successive disposizioni avremmo disciplinato il sistema contributivo stesso, cioè come avrebbe funzionato. Successivamente è intervenuto il decreto sul tema dei costi della politica del governo Monti, il 174, il quale ha detto che questi provvedimenti vanno assunti entro la fine dell'anno. Noi, essendo in scadenza di legislatura, quindi avendo nel 2013 le elezioni, abbiamo provveduto un tanto. Questo non era stato fatto prima perché la materia è un po' controversa sull'aspetto del trattamento fiscale che sono assoggettati i contributi che il consigliere versa, cioè questi il consigliere regionale versa dei contributi che vanno ad alimentare poi il trattamento previdenziale di cui godrà, e ad oggi unica categoria in Italia, e sugli stessi contributi grava anche la ritenuta fiscale IRPEF, cioè i contributi dei soldi versati per la previdenza sono soggettati anche a IRPEF. Comunque, mi scusi, ma mi faccia capire una cosa, ma il consigliere regionale per lei è una categoria produttiva? Ma il consigliere regionale è uno che svolge una attività... Ma dico, perché dovrebbe essere in un paese normale, uno viene eletto per alcuni anni per servire la comunità, cioè, anni... no, cioè, se lei mi parla del tassista, del medico, non parliamo di... Non è un lavoro. So che diventa un lavoro, ma non è un lavoro, abbia pazienza. Che poi ci debba essere una retribuzione... È una nota a spese, ci mancherebbe, no, guardi, non è un lavoro. No, dai. Non è un lavoro, però è evidente che se uno non ha una copertura previdenziale è giusto che non può, se uno sta 5, 10 o 15 anni in consiglio regionale o la Camera dove sta, non è che può perdere 15 anni di contributi. Ci mancherebbe. Guardi, che succede anche all'amministratore di una società, è lo stesso trattamento. No, ma io allora, contestavo solo che dicesse l'unica categoria produttiva, il politico no, non è... No. La politica è una categoria dello spirito, se vuole, ma non una categoria professionale. No, vabbè, ma svolgo un lavoro, piaccio o no, svolgo un lavoro. L'unico dato un servizio è... comunque andiamo avanti, dai, non voglio su questo, lo chiami come vuoi, va bene andiamo avanti, non voglio questo, non fa resto, incistarmi no? su questo alla fine se uno fa 10 anni deve avere quei 10 anni coperti dal punto di vista previdenziale. Con questo nuovo sistema è quello previsto dal regolamento della Camera, aggravato, nel senso che quello della Camera prevede il beneficio a 65 anni, noi l'abbiamo previsto a 66, e facendo una simulazione il trattamento praticamente a 66 anni di un consigliere regionale che versa i contributi per una legislatura è di circa 600 euro al mese per 12 mensilità. Questo è quello che è stato fatto in adempimento alle disposizioni nazionali in materia. Mi dica solo una cosa, da questo punto di vista il vitalizio lo potrete ricevere solo dopo i 66 anni e avendo fatto almeno 10 anni di mandato? Deve aver fatto una legislatura, non una legislatura e 66 anni. Ah, basta una legislatura. E riceve il 5,8% del montante che ha maturato dei contributi versati. E il 5,8 è lo stesso coefficiente già ridotto che entrerà in vigore con decreto governativo col 1 di gennaio del 2013 per tutti per tutto il sistema contributivo. Senta, e come mai l'avete approvato ieri alle 11 di sera per motivi di lavoro, diciamo di affollamento? Sì, di lavori dell'aula sulla finanziaria, succede sempre così, questo era l'articolo 11, è uno degli ultimi articoli ed è andato, ma non era notte fonda, erano le 21.30, erano 20 circa mi pare, quindi siamo rimasti là fino alle 2 e ci è andato anche bene perché l'anno scorso abbiamo finito alle 7 di mattina. No, quello no. Va bene, a questo punto guardi, noi verremo a ricontrollare questa cosa, se tutto funziona in quel modo, cioè da un punto di vista contributivo e non più con quello retributivo, va tutto bene. Io ricordavo il decreto Monti antifiorito che stabiliva 66 anni almeno 10 anni di mandato, voi mi dite che sono 5 anni di mandato, adesso faremo una verifica anche su questo. Grazie comunque per la disponibilità. Devo dare una notizia invece che non c'entra con questo, perché la copertina del Time nel frattempo l'hanno assegnata non a Mario Draghi come io mi auguravo, ma a Obama. Vabbè, in effetti ci sta anche quella. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata, noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.